Il punto di Stefano Folli. Nella rete che con abilità Renzi sta costruendo intorno a sé non si poteva naturalmente lasciare fuori i 5 Stelle, tanto più che Grillo ha chiesto con insistenza un incontro e l'incontro ci sarà, anche se con modalità che non sono ancora chiare e soprattutto con esiti che è molto difficile prevedere positivi. In fondo il Premier ha interesse che i grillini si aggreghino al progetto riformatore, ma rimanendo aggiuntivi e non sostitutivi rispetto all'accordo con il centrodestra, che ormai è abbastanza solido e che non vale certo la pena buttare all'aria per ricominciare da capo. Mentre Grillo vuole esattamente il contrario, vanificare l'intesa fra PD, Forza Italia e Lega e reinserirsi al centro del gioco, operazione a questo punto del tutto velleitaria. Detto questo, l'incontro serve a tutti, anche se gli obiettivi sono così diversi. A Renzi soprattutto conviene essere ospitale, visto che tutti accorrono verso di lui, da destra e da sinistra, e un domani, chissà, ci potrebbero essere altri grillini dissidenti.